as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, anche oggi qui a Il Pane e Rose purtroppo parleremo di una manifestazione, di un presidio che c'è stato a Bologna mercoledì, il pomeriggio, che ha visto lavoratori della CGIL e della UIL scendere in piazza e manifestare contro le morti sul lavoro, in risposta a quello che è successo a Firenze. Tutti quanti lo sanno, purtroppo a Firenze sono morti dei lavoratori immigrati italiani in un cantiere, quello di Firenze dell'Esselunga, che purtroppo sappiamo che lì le regole non sono state rispettate. Fino all'ultimo non si sapeva quanti lavoratori c'erano, che contratti avevano. E nel presidio queste cose sono venute fuori. È stato uno sciopero fondamentalmente organizzato dalla FIOM e dalla Fillea, degli edili della CGIL e poi della UIL, anche lì, degli edili della UIL, insomma, c'erano anche altri settori. Purtroppo non è stato uno sciopero confederale in tutte le categorie della CGIL, è stato uno sciopero però generale di 2 ore. Voglio dire che martedì i sindacati di base, credo solo l'USB, gli altri non ho visto volantini, hanno fatto 8 ore di sciopero. Però chiaramente 2 ore di sciopero di 2 confederazioni pesano molto di più a livello nazionale. Sarebbe stato meglio uno sciopero generale. Certamente ci aspettiamo che venga programmato il prima possibile, perché la situazione è davvero drammatica. Nell'intervista che abbiamo fatto a Simonazzi, che è il segretario di Bologna della Fillea degli Edili, Luca Simonazzi, sono venute fuori tutte queste cose. In più ci sono tutte le proposte che la Fillea ha messo in campo e anche la CGIL, che sono interessanti. Adesso vi lascio un pezzo che io amo particolarmente, Senza Sicura, e poi sentiamo l'intervista che ho fatto a Simonazzi, Luca Simonazzi, segretario di Bologna della Fillea. Dopo ci sentiamo per le conclusioni. Dove sono i compagni che possono fermare quelle mani assassine? Il solo rosso è dei caduti, la sola rabbia è quella delle madri. Il solo rosso è il sangue dei caduti, la sola rabbia è quella delle madri. Il solo rosso è il sangue dei caduti, la sola rabbia è quella delle madri. Il solo rosso è il sangue dei caduti, la sola rabbia è quella delle madri. Il solo rosso è il sangue dei caduti, la sola rabbia è quella delle madri. Il solo rosso è il sangue dei caduti, la sola rabbia è quella delle madri. Il solo rosso è il sangue dei caduti, la sola rabbia è quella delle madri. Ecco, siamo qui, sciopero di 2 ore organizzato da CGIL, UIL sulla sicurezza a Bologna. Siamo davanti alla, siamo in fiera qui davanti alla regione, c'è un piccolo corteo, abbiamo davanti a noi il segretario della Fillea di Bologna, Luca Simonazzi. Ho sentito le tue conclusioni, hai concluso giustamente, io credo che è giusto far concludere alla Fillea questa manifestazione, questo sciopero di oggi qua a Bologna, ma spero che succeda in tutta Italia, perché siete stati colpiti, ma sono ormai anni, da sempre, che la Fillea, gli edili sono tra i più martirizzati di questo paese, i lavoratori degli edili sono quelli che più subiscono tutte le problematiche, anche politiche di questo paese, come tu hai ben spiegato, le ragioni che ci sono dietro questi infortuni. Insomma, raccontaci un po' oggi la Fillea, quello che è successo, le proposte che avete in campo, insomma facci un quadro della situazione. Ma guardate, innanzitutto bisogna sfatare un mito o un pensiero molto comune, e cioè che l'edilizia sia un mestiere pericoloso. Non esiste un mestiere pericoloso, esistono solo regole e procedure per evitare che vi siano non solo le morti sul lavoro, che sono la punta di un iceberg, sono la punta di un iceberg di oltre 500.000 di infortuni che noi vediamo tutti i giorni, a cui assistiamo tutti i giorni, tutti gli anni, scusate, nel nostro paese. E la ragione sta nella struttura imprenditoriale di questo paese. In questo paese esistono 65.000 aziende che denunciano, dichiarano di non avere nessun dipendente. La dimensione media delle imprese edili in questo paese è 2,7 dipendenti, che è la più bassa tra i maggiori paesi europei. Questo significa che è tutto subappalto. E guardate, e non è un caso che tra i 5 morti di Firenze 4 fossero stranieri e 3 probabilmente non in regola coi documenti. Noi abbiamo, in questo paese viene alimentata dalle leggi volte a creare insicurezza ed emarginazione di questo paese, abbiamo volte a creare un esercito di disperati, di sfruttati, disposti a qualunque cosa, pronti ad accettare qualunque lavoro, ovviamente in nero, pur di sfamare se stessi e le proprie famiglie. E questa è una precisa decisione della politica di questo paese. Noi siamo colpiti più in edilizia più di altri settori, non perché le attività che svolgiamo siano più pericolose, ma perché è un settore nel quale, se non ci sono regole, se non ci sono controlli, è una giungla come quella del cantiere di Firenze, dove c'erano oltre 60 aziende in appalto e ancora non siamo in grado di capire chi erano i lavoratori che erano dentro quel cantiere, di chi fossero dipendenti e cosa stessero facendo. È importante quindi che la politica intervenga in questo senso. Le nostre proposte sono quelle da sempre: eliminare i subappalti a cascata che questo governo ha reintrodotto in maniera inspiegabile, introdurre il badge elettronico in modo che ci sia un controllo sistematico di chi entra in un cantiere, ma soprattutto quante ore fa, perché se hai una paga da fame, lavorare 10-12 ore al giorno non è una scelta, è una necessità per mettere insieme una paga decente. Questo governo pare che voglia togliere addirittura il badge cartaceo. Quindi noi chiediamo da anni, ma questa è la volta giusta, perché se questo paese non si scuote di fronte a tragedie come queste, non so quando dovrebbe farlo, perché anche agli appalti privati vengano estese le norme degli appalti pubblici, perché altrimenti rimane un far west dove banditi di fatto fanno il mercato e schiacciano i lavoratori, ma schiacciano anche gli imprenditori per bene. E una cosa che ti volevo chiedere: in questo momento in Italia si sta parlando dell'omicidio sul lavoro, no? E penso che sia una proposta proprio della Fillea. Sì. E su questo cosa ci puoi dire? Noi chiediamo da anni che venga introdotta il reato di omicidio sul lavoro, ma chiediamo anche perché i legulei ci dicono ma farla diventare una cosa penale vuol dire che poi noi abbiamo giustizia tra 10, 15, 20 anni. No, no, ma infatti noi pensiamo che ci debba essere proprio una magistratura dedicata. Noi chiediamo che oltre a questo, oltre all'omicidio sul lavoro, venga introdotta la patente a punti per le imprese. Il che cosa significa? Significa che se nel cantiere di un'impresa c'è un infortunio, quell'azienda non potrà un grave infortunio, non potrà partecipare ai futuri appalti, e quindi bisogna andare in tasca degli imprenditori che non investono in salute e sicurezza e che non garantiscono i propri lavoratori. Va in questo senso, perché altrimenti in questo paese vige l'impunità. Una cosa che ti volevo chiedere, allora, questo è uno sciopero che in realtà è confederale, più o meno confederale. Non è proprio confederale perché solo alcune confederazioni hanno partecipato, no? Doveva diventare confederale, diciamo, è allargato a FIOM, Fillea e non so se ci sono anche altre e basta. E questo problema degli appalti, dei subappalti, è un problema che in realtà riguarda anche altre categorie. Noi per esempio come metalmeccanici lo stiamo affrontando nel prossimo contratto nazionale, abbiamo messo che vogliamo la clausola sociale non solo per gli appalti pubblici, che già c'è dall'ultimo contratto, ma anche in quelli privati. Cosa vuole fare la Fillea perché queste vostre richieste, che secondo me possono essere allargate, diventino una richiesta di tutta la CGIL, di tutti i sindacati, e si possa organizzare veramente uno sciopero confederale allargato a tutti, di tutte le categorie, e diventi veramente all'ordine del giorno di tutta la categoria far questo? Avete in testa, perché bisogna fare delle pressioni? Ma allora, io in realtà penso che sia un problema che nel mondo sindacale, quello della sicurezza sul lavoro, sia un problema in realtà molto sentito. Sì. E io penso, così non ci giro tanto attorno, che se le cose non cambiano, se questo governo, che in questi minuti ci dicono sta varando un decreto senza essersi consultato con nessuno proprio sul tema della sicurezza, e allora andremo a vedere che cosa combineranno. Ovviamente non ci aspettiamo niente di buono, poi speriamo sempre nel meglio. Io penso che si debba arrivare allo sciopero generale. Io penso però che si debba anche dire esplicitamente che il tema dei morti sul lavoro è un tema che riguarda tutti, è un tema sul quale si deve aggregare tutta la parte sana della società. Perché quando un lavoratore o una lavoratrice muore sul lavoro, si incrina il patto sociale che tiene insieme tutta questa collettività. Perché, l'ho detto nel mio intervento, chi va a lavorare lo fa per mantenere la propria famiglia e lo fa onorando il patto sociale che ci tiene tutti insieme. Ogni volta che c'è un grave infortunio sul lavoro, ogni volta che c'è un morto sul lavoro, c'è qualcuno che quel patto sociale lo sta violando. Sta incrinando la coesione sociale di questo paese. E quindi se non si interviene, se non c'è un'alzata di testa a tutta la parte sana di questo paese, io credo che si debba andare a una mobilitazione generale, perché bisogna che questa parte sana si faccia sentire. E io penso che da questo punto di vista, come dire, la CGIL e anche la UIL, questo gli va riconosciuto, e anche siano pronte per fare questo passo. Quindi non è solo un problema degli edili e non è un problema dei metalmeccanici. Perché abbiamo avuto lavoratrici ingoiate da orditori in fabbriche tessili, abbiamo continuamente gravi incidenti e morti in tutto il pezzo della logistica, e la logistica è trasversale a qualunque settore. Oggigiorno vogliamo parlare dell'agricoltura? Che si contende forse con noi il primato, certo, rispetto, certo, al tema degli incidenti e dei morti sul lavoro, dove anche loro hanno un problema enorme di lavoro nero, di partite IVA, di microimprese. È un problema che è trasversale a tutta la società, ed è un problema, io mi permetto di dire, che non riguarda solo il mondo del lavoro, riguarda la società nel suo complesso. Dunque tu stai dicendo una cosa che io condivido, che sulla questione delle morti sul lavoro bisogna coinvolgere tutta l'opinione pubblica, tutte le persone, a cominciare dalla società civile cosiddetta, anche aggregando a tutti quei partiti che sono veramente intenzionati a fare qualcosa, cioè a confrontarsi con le vostre proposte, che sono proposte corrette e giuste. Qui ci deve essere uno scarto. Guardate, è difficile, sono decenni che è difficile essere amministratori delle istituzioni di questo paese. Io lo so, siamo tutti consapevoli delle difficoltà dei comuni che non hanno risorse, che nel momento in cui devono fare degli appalti, devono fare delle opere, è ovvio che regole, controlli, garanzie costano. E so che andiamo a chiedere sacrifici a comuni che i soldi non li hanno. Però

mi piace mettere spesso in radio perché è un po' tutti, è una canzone che rappresenta tutti i compagni che lottano e scendono in piazza e spesso sono armati solamente della propria forza di volontà, delle proprie parole, della propria lingua. Allora, abbiamo ascoltato Luca Simonazzi, prima di questo bellissimo pezzo, segretario della Fillea. Per chi si fosse perso la puntata può trovarla nel podcast della pagina Facebook Il Pane delle Rose. Niente, le conclusioni non servono, perché abbiamo sentito le proposte fatte da Luca Simonazzi. Certamente io non aggiungo nient'altro, sono proposte importanti come la patente a punti, il reato di omicidio, sempre se ci sarà una magistratura dedicata, perché altrimenti si rischiano che veramente si rischia che i processi non si fanno mai. In Italia conosciamo benissimo quello che succede per quanto riguarda i processi, soprattutto sul lavoro. Detto questo, io penso che la sicurezza sul lavoro dipende tantissimo, come ha spiegato anche Simonazzi, sul fatto che il profitto, laddove i padroni vogliono fare sempre più profitto, dunque ci sono appalti, subappalti, violano le regole, ci sono più morti, dove c'è sfruttamento ci sono più morti, dove c'è massimizzare il profitto a discapito della salute dei lavoratori ci sarà sempre più morti. Marx diceva che se non ci sono le regole sui luoghi di lavoro che vengono rispettate e fatte rispettare, i padroni non si occuperanno mai della sicurezza dei lavoratori, penseranno solo al profitto, e questo accade in Italia come in tanti altri posti nel mondo. Detto questo, io spero in un cambiamento della società, che venga eliminato lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, e se si riuscirà a far questo non ci saranno più morti sul lavoro, o meglio, questo certo, ci saranno sempre le morti tecniche. Io sono un tecnico della sicurezza e vi dico che il rischio zero non esiste, però quando le regole non ci sono i rischi aumentano a dismisura. Vi lascio con questo auspicio, il cambiamento della società. Però voglio anche parlare di un compagno, Pasquale Lo Iacono. La settimana scorsa il compagno Pasquale ci ha lasciato, era un delegato della FIOM di Mirafiori, per me era un esempio. Per tanti anni io lo guardavo e l'ho ammirato, l'abbiamo intervistato, ne abbiamo parlato della Fiat spesso sul Pane delle Rose. Andate sulla lista podcast, troverete le puntate dedicate alla Fiat, spesso ci sono interviste fatte a lui. Lui era il delegato storico della FIOM di Mirafiori, purtroppo ci ha lasciato, è andato da poco in Aspi per poi andare in pensione, voleva tornare giù, anche se era sempre a Torino, gli ultimi scioperi fatti, che abbiamo parlato la puntata scorsa, quando abbiamo parlato di Pomigliano, di Sciopi, lui era a Mirafiori, era là fuori, che ormai era in pensione, non ha mai mollato, mai, non avrebbe ne mollato nemmeno adesso che andava giù nella sua Calabria e avrebbe lottato insieme agli sfruttati, insieme alla gente della sua terra. Per noi rimarrà sempre un esempio. Voglio dire una cosa però, abbiamo visto tante cose scritte su Pasquale Lo Iacono, chi segue la pagina Facebook, la mia e anche degli altri compagni come me, ha visto tante cose, c'è stata una bellissima, al suo funerale tantissimi lavoratori hanno ricordato lui come un grande sindacalista, però io voglio dire sì, lo è stato, è vero, era anche uno che si occupava di sicurezza sul lavoro, era uno dei migliori conoscitori dell'ERGOWAS, che è il sistema che usano in Fiat, che è un sistema devastante, che ha massacrato i lavoratori, era uno che guardava i cicli di lavoro, era un uomo, un operaio di catena di montaggio, aveva scelto di fare l'operaio, di non fare il funzionario sindacale, è stato un esempio per tutti quanti noi, abbiamo seguito il suo esempio, di chi rimane in fabbrica con i lavoratori e lotta per loro e insieme a loro, è tecnicamente preparato per quanto riguarda la sicurezza e l'organizzazione del lavoro. Certo, è vero tutto questo, però dobbiamo ricordare che Pasquale Lo Iacono era innanzitutto un comunista, era innanzitutto un marxista, e tutto quello che lui faceva lo faceva perché era un comunista ed un marxista. E bisogna dire questo, e non dimenticarselo mai, tutto quello che faceva lo faceva perché era un comunista vero. Pasquale, che la terra ti sia lieve, e noi